Terzo anello, ad alta voce, L'isola del tesoro di Robert Louis Stevenson. Israel Hands doveva aver bevuto un quarto di pinta di brandy quando si levò la bottiglia di bocca. Ah, disse, per tutti i fulmini, mi ci voleva proprio. Io mi ero già seduto nel mio cantuccio e avevo cominciato a mangiare. Ferito grave? Gli chiesi. Grugnì, o meglio, abbaiò in risposta. Se quel dottore fosse stato a bordo, in un paio di visite mi rimetteva in gamba, disse. Ma non ho un briciolo di fortuna io, vedi, ed è questo che mi secca. Quanto poi a questa canaglia, è bell'e morto, aggiunse, indicando il marinaio dalla papalina. Non era un marinaio, a ogni modo. E tu, di dove diavolo sei sbucato? Ecco, dissi, sono venuto a bordo per prendere possesso di questa nave, signor Hans, e fino a nuovo avviso mi farete il favore di considerarmi come vostro capitano. Mi diede un'occhiata di traverso, ma non fiatò. A proposito, signor Hans, non posso battere questa bandiera io, e con vostra licenza la mainerò. Meglio nulla che questa. E scansando di nuovo il boma della randa, corsi alla bandiera, abbassai quel dannato vessillo nero e lo scagliai in mare. «Dio salvi il re!» esclamai agitando il berretto. «È finita col capitano Silver!» Mi osservava, astutamente di sfuggita, il mento sempre sul petto. «Immagino», disse alla fine, «capitano Hawkins, che tu voglia approdare. Orbene, si potrebbe discorrerne». «Perché no?» risposi io. «È proprio ciò che più desidero, signor Hans. Continuate». E tornai al mio pasto col miglior appetito. «Quell'uomo», cominciò, additando debolmente il cadavere, «O'Brien si chiamava, un attaccabrighe irlandese. Quell'uomo e io avevamo spiegato le vele per ricondurla indietro, all'ancoraggio. Ebbene, adesso lui è morto. Morto quanto una barca che fa acqua, e non vedo altri che sia in grado di manovrare questa nave. Se non ti do una mano io, non sarai tu a farcela, a quanto mi pare. Ora senti, tu dammi da bere e da mangiare, e una vecchia sciarpa per fasciarmi la ferita, e io ti insegnerò a manovrarla, pari e patta, va bene?» «Devo dirvi una cosa», feci io. «Io non intendo ritornare all'ancoraggio del capitano Kidd. Intendo di approdare nella Baia Nord e lì arenarmi tranquillamente». «L'avevo previsto!» gridò lui. «Non sono poi quel fesso che credi. Capisco qualcosa anch'io, sai. Ho tentato il mio colpo e ho perduto. E ora sei tu che hai il sopravvento. Baia Nord! Forse che ho scelta io. Se l'avessi ti aiuterei piuttosto a condurre la nave al molo degli impiccati. Accidenti a me se non ti ci vorrai portare». A quanto mi parve c'era abbastanza buon senso in tutto ciò. Stringemmo il patto all'istante. In 3 minuti la Hispaniola filava agevolmente col vento in poppa lungo la costa dell'isola del tesoro, con buona speranza di doppiare prima di mezzogiorno la punta nord e penetrare nella baia prima dell'alta marea, quando avremmo potuto farla renare senza pericolo e attendere che la marea discendente ci permettesse di sbarcare. Poi legai la barra del timone e scesi giù alla mia cassa, dove presi uno dei morbidi fazzoletti di seta di mia madre. Con questo, aiutato da me, Hans fasciò la larga ferita sanguinante che si era buscato alla coscia. E dopo che ebbe mangiato qualcosa e ingoiato un sorso o due di brandy, cominciò a reggersi meglio. Si mise a sedere, parlò più forte e più chiaro e prese l'aspetto di tutt'altro uomo. Io ero terribilmente fiero del mio nuovo comando e mi godevo il sereno, chiaro e soleggiato e quegli svariati panorami della costa. Avevo ora abbondanza d'acqua e buona roba da mangiare. E la coscienza che mi aveva parecchio logorato col rimorso della mia deserzione era chetata dalla grande conquista che avevo fatto. Non mi sarebbe rimasto nulla da desiderare, pensavo, non fosse stato per gli occhi del timoniere, che mi seguivano schernitori lungo il ponte, e per quello strano sorriso che ricompariva continuamente sulla sua faccia. Era un sorriso che aveva in sé una punta di sofferenza e debolezza, un sorriso sdegnoso di vecchio, ma vi era in più una punta di scherno, un'ombra di tradimento nella sua espressione, mentre astutamente mi osservava sul mio lavoro. «Capitano!» disse lui alla fine, con lo stesso inquietante sorriso. «C'è lì il mio vecchio compagno, O'Brien. Ritengo che tu non abbia nulla in contrario a buttarlo a mare. Io non sono abbastanza forte e non è un lavoro che mi piaccia. Per me sta bene dov'è», risposi. «Per conto mio, è una nave che porta scalogna questa ispaniola, Jim», continuò lui, ammiccando. «Un mucchio di marinai massacrati su questa ispaniola. Una bella filza di povera gente di mare morta e sepolta da quando tu ed io ci siamo imbarcati a Bristol. Non ho mai visto più porca scalogna in parola. C'era codesto O'Brien, c'era. Ora è morto, vero? Ebbene, io non sono istruito, mentre tu sei un ragazzo che sa leggere e scrivere. Beh, per farla breve... Credi tu che un uomo morto sia morto per sempre o che possa tornare a vivere un'altra volta? Voi potete uccidere il corpo, signor Hans, ma non lo spirito. Lo dovreste pure sapere, risposi io. Codesto O'Brien è adesso in un altro mondo e forse anche ci sta osservando. Ah, fece lui, questa è una disgraziata faccenda. Quanto dire che ammazzare gli avversari... è tutto tempo sprecato. Sia come sia, gli spiriti non contano granché, a quanto ho constatato io. Vorrei misurarmici io con gli spiriti, Jim. E ora che mi hai parlato con franchezza, mi faresti un vero favore se tu volessi scendere in cabina e portarmi una di quelle... Ma guarda, accidenti a me che non mi viene neanche la parola. Ecco, via. Una bottiglia di vino, Jim. Questo brandy è troppo forte per la mia testa. Però l'esitazione del timoniere non mi parve genuina. E quanto al suo preferire il vino al brandy, non gli prestai fede minimamente. Tutta la storia era un pretesto. Voleva allontanarmi dal ponte, ecco quanto. Ma con quale scopo non riuscivo a immaginare. Mai, una volta che i suoi occhi incontrassero i miei, vagavano inquieti su e giù, ora levandosi verso il cielo, ora dando una sbirciata verso il cadavere di O'Brien. «Del vino?» dissi. «Tanto meglio. Lo volete bianco o nero?» «Oh, ti confesso che per me è proprio uguale», rispose. «Quando è forte e abbondante, che differenza fa, amico?» «Giusto», risposi. «Vi darò del porto, signor Hans, ma dovrò frugare per scovarlo». Dopodiché mi affrettai giù per la scaletta, con quanto più fracasso potei. Mi tolsi le scarpe, corsi silenziosamente per il corridoio di comunicazione, risalii per la scala del castello di prua e sporsi la testa fuori da quel boccaporto. Egli si era sollevato sulle mani e sulle ginocchia dalla sua posizione, e quantunque senza dubbio la gamba gli desse fitte dolorose quando si muoveva, tanto che lo sentii soffocare un gemito, pure fu con discretamente rumorosa velocità che si strascicò attraverso il ponte. In mezzo minuto aveva raggiunto gli ombrinali di babordo e aveva estratto da un rotolo di funi un lungo coltello, o meglio un corto pugnale, sporco di sangue fino all'impugnatura. Lo contemplò un istante, sporgendo la mandibola. Ne provò la punta sul palmo e poi, nascostoselo frettolosamente in seno sotto la giubba, rotolò di nuovo al suo antico posto contro il parapetto. Era tutto quanto volevo sapere. Israel era in grado di muoversi. Adesso era armato. E se si era data tanta pena per sbarazzarsi di me, era evidente che la sua vittima dovevo essere io. Pure mi sentivo sicuro di potergli prestar fede su un punto, dato che su quello i nostri interessi convergevano, ed era la destinazione della goletta. Entrambi desideravamo portarla ad arenarsi al sicuro, in una località riparata, in modo che quando venisse l'ora la si potesse tirar fuori di nuovo col minimo rischio e la minima fatica, e finché non l'avessimo fatto, ritenni che la mia vita sarebbe stata certamente risparmiata. Mentre stavo così rimuginando nella mia mente, il mio corpo non era rimasto inoperoso. Avevo fatto ritorno in tutta fretta nella cabina, mi ero rinfilato le scarpe e, messa la mano a casaccio su una bottiglia di vino che giustificasse la mia assenza, ero ricomparso in coperta. «Bene», dissi, «vi taglierò un po' di tabacco. Ma se fossi in voi e me la vedessi così brutta, vorrei dire le mie orazioni da buon cristiano». «E perché?» disse lui. «Dimmi un po' il perché ora». «Perché?» gridai io. «Poco fa mi avete fatto quella domanda a proposito di quel morto. Siete venuto meno al vostro giuramento. Avete vissuto una vita di peccato, di menzogna e di sangue. Ecco là un uomo che avete ucciso proprio ai vostri piedi in questo momento, e mi chiedete il perché? Per l'amor di Dio, signor Hans, il perché è questo!» Avevo parlato riscaldandomi un po', pensando al pugnale insanguinato che si era nascosto in seno, destinato nella sua idea a finirmi. Lui, dal canto suo, tracannò una lunga sorsata del suo vino e parlò con una solennità più che eccezionale. 30 anni, disse, ho navigato i mari, ho visto il bene e il male, il meglio e il peggio della vita, maltempo e sereno, viveri esauriti, coltelli alla mano e non so cos'altro. Però devo dirtelo, mai ho visto del bene nascere dalla bontà finora. E Chiarsodo per primo è il mio motto. Chi è defunto non morde. Ecco le mie opinioni. Amen. E così sia. E ora ascolta, aggiunse cambiando subitamente tono. Basta con queste sciocchezze. La marea è cresciuta abbastanza intanto. Prendi gli ordini da me, capitano Hawkins, e fileremo dentro alla svelta e la faccenda sarà liquidata. Avevamo appena sorpassato l'imboccatura che la terra ci circondò da ogni parte. Le coste della baia nord erano altrettanto boscose di quelle dell'ancoraggio sud, ma lo spazio era più lungo e ristretto e più simile, com'era infatti, all'estuario di un fiume. Proprio di fronte a noi, all'estremità sud, scorgemmo la carcassa di una nave nell'estremo stadio dello sfacelo. Era stata una gran nave a 3 alberi, ma rimasta così a lungo esposta alle intemperie che le pendevano addosso come delle grandi reti di alghe sgocciolanti, e sulla sua coperta si erano abbarbicate radici degli arbusti della spiaggia che ora sbocciavano, tutti in fiore. Era un triste spettacolo, ma ci provò che l'ancoraggio era calmo. «Adesso», disse Hans, «guarda là! C'è proprio il posto ideale per arenarci una nave. Sabbia fine e liscia, senza una ruga, alberi tutt'intorno e fiori che sbocciano, come in un giardino, su quella vecchia nave. E ora, ragazzo, attento! Siamo vicini a quel cantuccio e abbiamo troppo a brivio. Un po' a tribordo, così, diritto ora! A tribordo, un po' a babordo, dritto, dritto!» Così lanciò i suoi comandi, che io eseguii ansante, finché all'improvviso gridò: «E adesso, ragazzo, forza! Forza!» E io a tutta forza misi la barra al vento e la ispaniola virò veloce e corse con l'asta di prua dritta alla bassa riva boscosa. L'eccitamento di queste ultime manovre aveva in certo qual modo interrotto la vigilanza che avevo fino allora mantenuto abbastanza stretta sul timoniere. Anche allora ero talmente assorbito dall'attesa che la nave toccasse che mi ero completamente scordato del pericolo che incombeva su di me e me ne stavo curvo sul parapetto di tribordo osservando le increspature che si aprivano vaste intorno alla prua. Sarei potuto cadere senza aver lottato per la mia vita se non mi avesse colto un'improvvisa inquietudine che mi costrinse a voltare il capo. Avevo forse udito uno scricchiolio, o veduto muoversi la sua ombra con la coda dell'occhio, o forse ancora fu un mero istinto il mio, come quello del gatto. Fatto sta che quando mi guardai intorno, Hans era lì, già a mezza strada da me, nella destra, il pugnale. Dobbiamo aver gettato un urlo, entrambi, quando i nostri occhi si incontrarono. Ma mentre il mio fu un urlo di terror panico, il suo fu un ruggito di rabbia, come quello di un toro alla carica. Nello stesso istante si lanciò avanti e io lo scansai di fianco verso prua. Così facendo lasciai sfuggire la barra del timone, che si abbatté tutta a babordo. E credo che fu questo a salvarmi la vita, perché essa colpì Hans in pieno petto e per il momento lo fermò. prima che potesse riaversi, io mi trovavo in salvo fuori dell'angolo in cui mi aveva intrappolato, con tutto il ponte, per sfuggirgli. Proprio davanti all'albero maestro mi fermai, estrassi dalla tasca una pistola, presi freddamente la mira, quantunque si fosse già rivoltato e tornasse direttamente alla carica, e tirai il grilletto. Il cane scattò, ma non fu seguito né dal lampo né da scoppio. La carica era stata resa inservibile dall'acqua marina. Un'unica cosa vedevo ben chiara. Non potevo semplicemente ritirarmi davanti a lui, o ben presto mi avrebbe chiuso contro la prua, come un minuto prima per poco non mi aveva chiuso la poppa. Una volta così ingabbiato, i 9 o 10 pollici di quel pugnale insanguinato avrebbero costituito la mia ultima esperienza in questo mondo. Appoggiai le palme sull'albero di maestra, che era di considerevole grandezza, e aspettai con tutti i nervi tesi. Mentre le cose erano a questo punto, a un tratto la ispagnola toccò, barcollò, solcò per un istante la sabbia e poi rapidamente, come sotto una raffica, sbandò verso sinistra, così che il ponte fece un angolo di 45 gradi. Una mezza tonnellata d'acqua sgorgò dai fori degli ombrinali e fece un lago tra il ponte e il parapetto. Tutti e due andammo a gambe levate in un attimo e tutti e due andammo a rotolare quasi insieme negli ombrinali, col morto dalla papalina rossa a braccia sempre spalancate che rotolava rigido dietro di noi. Così vicini ci trovammo che la mia testa andò a sbattere contro il piede del timoniere con un urtone che mi fece scricchiolare i denti. Malgrado il colpo, fui io il primo a ritrovarmi in piedi perché Hans era rimasto impicciato dal corpo del morto. Il repentino sbandamento della nave aveva reso il ponte disadatto per correrci e io dovevo trovare qualche nuova via di scampo e sull'istante, perché per poco il mio nemico non mi toccava. Veloce come il pensiero, balzai sulle sartie di mezzana, mi issai una mano dietro l'altra e non tirai fiato se non quando mi trovai seduto sulle barre. Mi ero salvato con la prontezza. Il pugnale aveva colpito nemmeno mezzo piede al di sotto di me mentre proseguivo la mia scalata e Israel Hans rimase lì a bocca aperta e un viso volto all'insù verso me che era l'immagine dello stupore e della delusione. Ora che avevo un attimo di tempo non tardai a cambiare l'innesco della pistola e così avendone una pronta a funzionare per maggior sicurezza procedetti a estrarre la polvere dall'altra e ricaricarla. La mia nuova attività sconvolse Hans. Egli cominciò a sentirsi la sorte avversa e dopo un'evidente esitazione si issò faticosamente anche lui tra le sartie e col pugnale tra i denti cominciò lentamente e penosamente a salire. «Un passo di più, signore Hans, e vi faccio saltare il cervello. Chi è defunto non morde, sapete bene», aggiunsi con un sogghigno. Si fermò di botto. Potei desumere dai moti del suo viso che si sforzava di pensare e che il processo era così lento e laborioso che dall'alto della mia recuperata sicurezza mi sfuggì una risata. «Jim», disse, «devo riconoscere che siamo nei guai, tanto tu che io, e ci conviene far pace. Io ti avrei preso, non fosse stato per quello sbandamento». Ma non devo aver mai fortuna io, e mi rendo conto che mi tocca ammainare. Cosa assai dura, vedi, per un vecchio timoniere come me, di fronte a un novellino come te, Jim. Stavo bevendomi le sue parole e sorridendoci sopra, presuntuoso quanto il gallo sul muro, quando la sua destra si portò indietro in un lampo all'altezza della spalla. Qualcosa sibilò come una freccia attraverso l'aria. Sentii un urto e poi un acuto dolore e mi ritrovai inchiodato all'albero per una spalla. Nell'orribile spasimo e nella sorpresa del momento non posso dire se sia stato per un mio atto volontario e sono certo che fu senza aver coscienza di mirare. Entrambe le mie pistole spararono ed entrambe mi sfuggirono di mano. Non caddero sole. Con un urlo soffocato il timoniere abbandonò la sua presa alle sartie e piombò a capo fitto nell'acqua. Piero Baldini ha letto L'isola del tesoro di Robert Louis Stevenson. Riduzione Giovanni Piccioni. Regia Adelchi Battista. Coordinamento Fabiana Carobolante. Il terzo anello @rai.it.